Mary. Ma sembra propagazione, fra. Sì. Siamo tu, Gianni, che tu sei mio primo. Qua è troppo basso, La Germania, la senti già? Avanti Germania, Sierra Sierra, Sardegna, Italia, avanti. Ok, 7351, qui stazione Lima Papa, Gianni Sassari, nord Sardegna, Italia. Ok, Lima Papa, Lima Papa, Lima Papa, you are 5 and 5 and 5 and 7. Ha detto bavarese per caso? Vabbè, io qua ho troppi rumori, rumorini, rumoretti e niente da fare, dai. C'è molto QRM, QRM, QRM. Signal no good. Ciao caro, qui segnale Santiago 5, Santiago 5, Radio 3, Radio 3, ok? Salutoni 73, goodbye. Ti sta ascoltando, 5-5 ti sta ascoltando, 5-5. Ok, my friend, see you later, bye bye. Ciao Claudio. Ciao, ciao, continuate, facciamo così. Bye bye, Claudio, ho messo la ringo, dimmi prima di andare via come se noti qualcosa. Quasi nessuna differenza, non avevo dubbi. Ok, grazie, buonasera intanto. Ehi, troppo vicini, dai. Però già da Franco, vedi, c'è stato un incremento. Ehi. Benché l'incremento si dovrebbe notare un po' anche in città, mi ho già. Vabbè, però ti ho detto, per installazioni fisse da lasciare 20 anni, meglio la 5 ottavi. Va bene, poi valuterai, dai. Ha tradotto Claudia, perché io in alcune, il suo segnale oscillava, mi ha detto che praticamente gli stava arrivando 5.5. Sì, ha detto 5.5, Santiago 5 sarà Radio 5. Beh dai, il mio primo veloce di ex è casinato, ragazzi. Però è già qualcosa, vedi? È già qualcosa. Tu dirai, magari guadagna poco, però da un quarto d'onda si è passata a mezz'onda. È pur sempre una mezz'onda, ricordati. Bene mela. Io mi sto sbranando un paio di biscotti nel frattempo. Io devo controllare il pollo a vedere se è cotto. No. Vediamo se sì. L'altro giorno la tua mamma l'ha rinsecchito al microonde, l'ha rinsecchito. Uia, il pollo devi aprire, vedere se dentro è rosa, se è cotto dentro. Uia, vabbè. I genitori invecchiano, che te devo dire? Vabbè. Io non ci avrei cucinato col microonde, vabbè, poi quelle sono scelte. Diciamo che il microonde non è. Ma come te lo posso dire? Non è il massimo della vita. Sì, noi abbiamo quello col grill, praticamente li diamo. Vabbè, lo facciamo. Anche combinato lo puoi fare, cioè per farlo cuocere dentro meglio il microonde e poi il grill per rosolarlo un po' sopra. Però va bene, anche io avrei preferito il forno classico. Poi non c'è paragone. Non c'è paragone sì. È tutta una cracuba, come si dice. Aspetta che ho il telefonino in mano, che sennò mi incasino. Vabbè dai, devo rimparare quelle poche cose che sapevo quando facevo i DX, che adesso mi sono completamente dimenticato, e quindi mi tocca ripassare qualcosa, dai. Sì, quei termini in inglese classici dei DX, sulle quattro cose. Tanto di solito cioè internazionale si parla inglese, poi vabbè, i francesi vogliono parlare francese, la maggior parte di loro devi parlare francese con loro, sono molto nazionalisti. Invece i tedeschi ogni tanto si sforzano di parlare italiano, notato, lo sai. Sono più predisposti a parlare persino l'italiano. Il tipo non hai sentito? Il tipo stava parlando più italiano che inglese. Deia, solo che qua c'era QSB, cioè mi saliva e il segnale mi scendeva. Si è passato da 3 a 6, poi è sceso subito dopo, insomma una media di 4-5 il segnale. Purtroppo la propagazione non è stabile, cioè altro che questo ci dovrebbe essere di propagazione, ma segnaloni mi ti devono arrivare quando la propagazione è buona. L'ha detto anche lui, QSB, praticamente anche lui praticamente non mi riceveva costante, era a svarioni. E qua passava da 5 a 3. Troppo bassa quell'antenna, la spirale è troppo vicina al muro. Lo so, Cra, non, il palo non è molto lungo, l'antenna ha una lunghezza importante. Adesso, insomma, per stasera lascio così, magari domani mattina allento un po' i dati e la tiro su di un po', però il palo che c'ho non è molto lungo. Deve tirare su, è troppo vicino al muro, non stai radiando con l'antenna. Almeno un paio di metri, un metro e mezzo, due metri deve essere quel piano di massa così chiamato dal muro, troppo vicino. Vabbè, non dispongo di un tubo così lungo qua, adesso domani mattina ho fatto pulizia del terrazzo, ho levato tutti gli imbarazzi, domani mattina lo tiro almeno di un altro metro su, la posso tirare, dopodiché non la posso alzare più. Vabbè, prova con un altro metro. Così è troppo vicino, dalla foto che mi hai mandato si vede che è troppo vicino. Va bene, dai, continuate, sentiamo dopo. Ok, grazie. Ehi, Claudio, qua stanno sparando fuochi artificiali. Si sentono zucchi a ripetizione, ma qualche festa deve essere, laurea, compleanno. Li sento anch'io da qua. Stanno... sto cercando di vedere... Vabbè, io adesso girato di spalle intravedo il campanile di Cappuccini, quella cupola vetrata, se non sbaglio, del Teatro Comunale. Vabbè, mi devo per forza affacciare, ma mi sembra che sono finiti. Mi sembra ci sia la festa del gremio. Ah, il gremio! Mi pare, o qualcosa. Non so, ho visto che qua sono usciti due vestiti da pinguini. Sono due dei gremi qua, vestiti da pinguini. Non penso che stavano andando al cinema, sicuramente a qualche festa. Oh, vabbè, dai. Domani tiriamo su quel metro di tubo e vediamo di procurarcene uno più grande. E si dice innestare quello, allungarlo, sennò impossibile non si può fare. Io tubi così alti non ne ho. Non ne ho, sono ancora. Vedo un po', comunque tira lassù sino a quando puoi. Perché con l'antenna più alta è più va bene, così è troppo attaccata al muro. Sì, claro, l'ho immaginato. Vabbè, anche leggendo alcune informazioni. Sì, adesso ti ripeto, per una questione ho piazzato, adesso praticamente i dati non li ho stretti, non li ho bloccati del tutto. Sì, l'antenna è, il tubo è fissato bene tutte cose, però mi ero ripromesso magari domani mattina con calma di alzare almeno quel metro che mi avanza, dopodiché adesso vediamo se in campagna o da qualche parte riesco a buscare qualche pezzo di tubo appena più grosso e glielo piazziamo. Vedi un po' già, perché così è troppo basso. Vabbè, dai, a dopo, riprendi, Marco. Ehi, siccome c'era una discussione sul forum tempo fa, no? Qualcuno preferisce il tubo d'acqua, ci sono voci discordanti, qualcuno preferisce un tubo d'acqua, no, quello bello, un bello teccio, no, unico, una altezza media fa i 4 metri, 5, no? Qualcuno preferisce il palo telescopico, di quelli magari belli tecci, non da 0,8, da 2 mm, credo che siano quelli rinforzati, forse qualcosa di più. E non ho capito se è meglio un tubo unico, cioè per il vento, no, a livello di cosa meccanica, cos'è meglio, un tubo unico o uno che è fatto in sezioni varie, boh. Qualcuno dice che preferisce il telescopico, non ho capito perché, e qualcuno preferisce il tubo unico. Non lo so, non so. Beh, mi viene da pensare che quello telescopico a livello, tra virgolette, di elasticità, di possibilità di flessione, ne abbia di più rispetto a un tubo unico tipo quello dell'acqua, capito? Quindi magari a livello meccanico, diciamo che questo, quello, la prima cosa mi viene in mente è che quello, il tubo telescopico forse ha maggiore, tra virgolette, possibilità di torsione, chiamiamola torsione, che non è neanche il termine giusto, diciamo che è più elastico, dai, rispetto a un tubo unico di quelli d'acqua. Sì, perché credo il discorso fosse incentrato, no? Se tu c'hai un'antenna X, no? Che ne sono 5 ottavi con un palo X, pari lunghezza, ma uno tubo d'acqua, quale rischia di piegarsi di più in caso di vento estremo? Ma estremo, amici, tifoni, è lì chi la riceva cotta, chi la riceva cruda, dai. Correnti di pensiero. Beh, poi bisogna vedere anche il diametro, lo spessore dei tubi, cioè, perché secondo che tubo d'acqua metti, cioè, prima di pigiarsi magari si staccano le staffe. Infatti come dicevo anch'io, magari si staccano le staffe dal muro, piuttosto che piegarsi il tubo. Vabbè, comunque da quel messaggio che avevo mandato di quel forum sono sparite foto, sono spariti i video dell'installazione, è sparito tutto, sai perché? Perché come aggiornano il forum, cambiano il modo di incorporare i video, cambiano il modo di incorporare le foto, che prima era post image, poi sono passati a image hack o come si chiama, e quindi sparisce materiale utile magari. Infatti ho trovato tutto storpiato, manca roba. Infatti ci sono quando io sono entrato lì ho trovato le icone semitrasparenti, delle piccole icone semitrasparenti, dove praticamente presumibilmente lì c'erano delle fotografie. Ci ho provato a cliccare col tasto destro, visualizza immagine, mostra immagine, e niente, non mi faceva vedere assolutamente nulla. Sì, è sparito tutto perché c'era la veduta aerea dal terrazzo a 360 gradi, no? Per ricollegarci al discorso di prima, che da via Savoia in poi è tutto chiuso, capito? Va a salire sempre di più. E va bene, pazienza, bisognerebbe reincorporare, non emetto, pazienza, tanto è discussione vecchia quella. A parte che, come ho visto quelle fascette, mi è venuto la piangere, perché erano fascette da 13 metri. Non erano nemmeno acciaio inox, io poi le ho comprate a parte da Bricoman, le ho prese in acciaio inox le fascette, perché quelle che ti danno fanno ridere, sono quelle tipo alluminietto tenero, c'è roba che se forzi a stringere si sgrana la vita, hai capito? Sì, no, quelle che c'erano nell'antenna di Daniele già erano buone. Poi sotto, immediatamente sotto, dopo il tappo dell'isolatore, praticamente dove c'è la staffa, la seconda staffa che regge la bobina, quella L con il rivetto, lì praticamente per stringere il tutto, sia il tubo di sostegno che il resto, praticamente ho messo un'altra fascetta in acciaio inox che stringe anche la staffa L. Insomma, ne ho messo una bella robusta, gli ho dato una bella stretta, così almeno evito che praticamente dondoli troppo. Ehi, e poi ti farò, poi ne parleremo, dai, non qua, della la Ringo, no? L'impermeabilizzazione purtroppo non era andata a buon fine, invece la 58 l'ho impermeabilizzata io bene, però tendendo bene il nastro, passandolo per la metà sopra, cioè sovrapponendolo per la metà della larghezza, bello teso, ma proprio ho fatto il malloppo, ogni sezione di stile ho fatto il malloppo di vulcanizzante più il nastro adesivo, in modo da tenerlo anche in forma prima che facesse presa, e vedo che sta tenendo. Cappa, dai, detto ciò devo andare in cucina a controllare con la roba, dai, lascio bianco e sentiamo più tardi. Dai. Ok, dai, ci aggiorniamo, a dopo. Io, ciao anche agli ascoltoni, ciao ciao. Dimmi Massimilia, sto facendo corso. Massimilia. Eia, ci sei qua? Eia. Ma ti sento tutto strano, tutto male, boh. E anche io ti sento male, boh. Non sembra neanche nel canale 10. Ora, vuoi mettere la prova? E vuoi arrivare, se lì devi andare dritto. Ora, vuoi mettere la prova? No, non ti sento bene, cosa hai combinato? Ma sì, ma me la terare, oh qua. No, io sono in AM, guarda tu dove sei, se sei in FM, dove sei? No, io non ti comprendo se sei dicendo, io. Cosa? Non ti sento bene io. Ma cosa ha cambiato, apparato? Guarda, se lo senti tu, io lo sento malissimo. Un altro timbro di radio. Oh, qua arrivate tutte e due bene, mi. No, Massimiliano mi ha mandato un messaggio che voleva un controllo, ma io lo sento malissimo. No, io non ho notato questa cosa. No, te... Vabbè, dai. Sono in cucina, dai, a dopo. Cosa non hai notato? Cazzo, non vedi che tu lo ascolti bene, no? Non è inascoltabile, cioè tu non lo capisci quasi, io lo capivo come capivo Gianni. Mi. Ma se sembra fuori frequenza, oh Marco, ma che cazzo di baracchini ci avete? Sì, ma questo è largo di banda, Claudio, già lo sai che i baracchini non sono selettivi, quindi anche se è fuori di poco non me ne accorgo. Ma se io non lo capisco per niente, gira il crane, fai a destra o a sinistra. Cazzo, era appunto mi sa radio, non gli ho preso cosa avesse detto. Cosa? Cosa ha detto Marco? Non capisco io. No, adesso è fuori di 5 kHz, indietro di 5. È tra il 9 e il 10 più o meno. Ma no, che cazzo hai toccato Massimiliano? Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova. E adesso va bene. Io non ho toccato niente, è chiaro, cosa devo toccare? Ho girato questo cane, fratò. Se lo metto così, buono. Cazzo di là, sono poco fatto, metto, gira il clarifer a destra o a sinistra. L'ha fatto anche a me, mettilo com'era. Così, buono, Ehi, così lo devi lasciare. Ma così è barredotto, però. E così devi andare. Già lo gioco io che è barredotto. Ok, dai, comunque, lo Smith l'ho messo a posto, sto usando il Superstar con Turner più 3. Buona la radio. Meglio del Cobra. Addirittura? Sì, ma non avevo dubbi perché lo sapevo già. Ok, dai, lo Smith l'ho adattato, quello là. Marco, tu come mi ascolti? Buonasera comunque. Buonasera, sì, buona. C'è una timbrica, vabbè, non è la solita tua, però va. Allora Marco, io questo sto usando un Superstar 360 FM col Turner più 3. Allora, se aumento così, cosa è successo? Niente. Neanche da te Marco, ho aumentato la radio così o no? Così, guarda, 1, 2, 3. Ma più o meno siamo lì. Magari non parlare troppo distante dal mic perché fa l'effetto stanza. Comunque è buona. E ha voglia. Ok, là, così l'ho messo, diciamo, non è proprio al massimo il Turner, ma quasi. Già va bene. No, non stare molto distante. 20 centimetri dal microfono, stai. Cappa, ok. Dai, ce l'ho tutto smontato qua, senza pomelli, senza nulla, capito? Va bene. Ciao Massimiliano, buonasera. Ciao, buonasera anche a te. Ascolta, vabbè, adesso non so se sei in condizione di darmi un rapporto segnale. Ho messo, piazzato la Ringo, dimmi se hai avvertito qualche differenza. Si è spostato di nuovo. È lui che sta toccando, mica ti sei di nuovo spostato. Ti sei di nuovo spostato, non capisco un accidente. Guarda a vedere, 1, 2, 3. No, no. Adesso avanti, avanti, un bel. Guarda, guarda, così deve andare. Ehi, ti ho detto che deve andare, tutto da una parte chiuso. Andare, dai, ok. Dai, continuate, che io mi... No, dai, sono stato bravo, dai, mi ho messo il come si chiama apposta, lo smitterino. E così anche questo è a posto. Sì, ma ricordati, quel cluster deve essere tutto da una parte, non centrale, perché altrimenti vai fuori. E vabbè, qua, va bene, ok, dai, me lo rimonto tutto, dai, poi al limite se non esco riprendo, ok? Vabbè, dai, io vi lascio, vi stavo guardando la televisione. C'è qualche partita che mi interessa, sta giocando il Cagliari, ci sentiamo, ciao. Ciao, cra. Eh beh già, sto telefono non funziona. Ma tu mi stavi chiamando? Ehi, il numero di WhatsApp è... 989 finale, giusto? Aspetta, controllo. Vabbè, il mio non me lo ricordo, il mio non me lo ricordo. Sì, un attimo fa. Mi, gli alieni sono arrivati, mi. Super Mario Bros, Super Mario Bros. Credo che sia NFM peraltro questo cicalino, come lo vuoi chiamare. Roba comprata da De Paolini. De Paolini, cosa mi hai ricordato, eh? Mamma mia, mi sembrano passati mille anni. Vabbè, io ho una chiamata persa alle 18.10 con il numero finale 989. Sei tu? Sì, sì, sono io. No, ti vorrei spiegare in dettaglio quella cosa dell'impermeabilizzazione andata male. Capo Rogero, aspetta che me lo salvo. Sto guardando le foto, ottimo, ottimo. Caspita, non è nessun palazzo a ridosso che ti opprima, è un bijou questa posizione, è un bijou. C'è roba che se metti così 5 ottave lineari, ciu ciu. Ho fatto un po' una panoramica totale per farti vedere più o meno cosa mi circonda, dai. Eia, c'è Monte Oro proprio... a tiro di fiondata proprio, vabbè, buono, buono, buono. Sì, molto migliore della posizione qua, anche se sono più alto, c'ho tutto il continente italiano chiuso. Capito? Bene, bene, meglio così. Hai visto, cioè, io vedo, vabbè, Cappuccini, tutta la zona che c'è nuova dietro, insomma. Poi chiaramente, dopodiché non riesco a vedere più niente, comunque. Bene o male, dai, Sassari, un bel po' di Sassari riesco a vederlo. Voglia. Ma tanto poi in propagazione, anche se non vedi l'orizzonte proprio ottico, quello, no? Il segnale viaggia sulla... Come si chiama? Qual è lo strato riflettente per la 27? Ionosfera, sì, troposfera è per le V e le U, ionosfera, rimbalza su e si fa il giro d'Europa, e non solo, anche di più, dipende quanto è lungo lo skip. Il giro grande, dai. c'è sempre Camomilla Club con la sirena che si attaccava alle biciclette dei bambini, te la ricordi? Allora, era una sirena gialla con un cavetto spiralato e una specie di microfono che faceva da telecomando, anche da speaker, me lo ricordo. Cioè, io l'avevo presa in cartoleria. Quel tipo che sta usando, che ogni tanto sente la portante con quel suono lì. Eia. Mi pare avesse tre tipi di sirene, no? Tipo polizia americana, bitonale, e poi non mi ricordo. Oppure c'erano due sirene più l'amplificazione della voce. Sì, c'era una sorta tipo PA, e poi c'erano tre o quattro suoni di sirena. C'era la bitonale, c'era quella col suono lungo, e poi c'era quella all'americana. Vabbè, comunque non c'è bisogno della telefonata, faccio il passaggio vocale su WhatsApp, dai. Sarò breve. Andavex. Bene mela. Vabbè, adesso non so se stai andando a mangiare o se ti puoi trattenere dopo il radio. Adesso arriva il messaggio, aspetta. È tutto lì. È passato un millimetro, è entrata acqua e ha compromesso tutto il funzionamento dell'antenna. No, la colpa mia è stata di non verificare, io dovevo verificare se era messo a regolarsi, capito? Bastato un millimetro, è entrata l'acqua, c'era di tutto ruggine, mucillagine, ossido, tutto un impasto di roba che ha compromesso proprio l'antenna. E ho detto, è la volta buona che la cambio, tanto non... Va bene, detto ciò, vado a mangiare, dai, già, ci sentiamo. Quando capita, oppure non lo so, dopo vediamo. Ok, ciao. Poi vedi sempre Eugenio, tanto di guadagnato, fate la prova anche a produttore. Bene, la buona carica, dai, magari se ne gana ci sentiamo dopo, oppure quando coincide, come si dice. Bene, avapai. E io, ciao. Gianni. Nessuno? Aio, chi è? Avanti. Ciao Massi. Oh, ciao. Già. Buonasera, ascolta, vabbè, poco fa è incasinato. Ho messo sulla Ringo poco fa, dai. Comunque, ho messo sulla Ringo, volevo sapere se da te era cambiato qualcosa. Assolutamente no, sempre il solito segnale, sei in ovo spaccato. Vabbè, mi ha detto che Franco che sono salito, dai, appena però sono salito il segnale. Io se vuoi ti faccio la foto un'altra volta, mi lascio la portante e ti faccio la foto. E poi te le paragoni con quelle che ti ho mandato quando avevi l'altra antenna. Sì, già mi fido, esagerato. No, comunque sicuramente avrò guadagnato anche in ricezione. Ma quello, se guadagnato in ricezione lo devi vedere tu, noi non lo possiamo vedere, no? Tu cosa ti accorgi? I segnali che ti arrivano sono più forti o meno forti? Più o meno sono invariati, Massi. Ma stiamo parlando sempre un quarto d'onda di antenna, capito? E buscare una 5 ottavi tu, allora vedi la differenza. Tirata su tutta sono 4,86 metri. E l'altra invece quanto era? 3,10 metri. Vabbè, hai guadagnato di più di un metro, però in trasmissione perlomeno io ti ricevo Santiago 9. Vabbè, Franco mi ha detto che sono salito anche ho guadagnato qualcosina. Adesso sarebbe stato bello se entrasse Eugenio, così almeno lui che è più lontano, vabbè, chissà, sarà in giro a farsi il battesimo giustamente. Giappa, giappa. Dagli altri come arrivi? È cambiato? No, arrivavo come arrivavo prima, arrivo adesso. Non ci sono state variazioni. A parte Franco, no, tutto uguale. Giappa, io ti sto dicendo che da me non è cambiato assolutamente nulla. Non hai guadagnato niente, zero, neanche un fattino, nulla. 9 eri e 9 sei rimasto. Però tutti a cui, in ricezione, secondo te, guadagnato qualcosa? Guarda, poco fa, scherzando e ridendo, ho scambiato due battute con un tedesco, vabbè, per via della propagazione, però ci sono riuscito. Eia. No, vabbè, ma io non parlo di propagazione, parlo dei segnali nostri. Cioè, Claudio, io, Marco, Franco, ti arriviamo sempre uguale come segnale. Sì, ma sì, non ho... è stabile, non è cambiato niente. E allora, ho visto... Gappa gappa, va bene, quindi andava bene anche quella là l'antenna. Vabbè, adesso ci lascio questa. a Taifara. C'ho ancora un metro di tubo da tirare su, voglio vedere se cambia. Perché giustamente Claudio mi ha detto che, dopo ti mando la foto, che praticamente le bobine sono molto vicine alla fine della casetta della tromba delle scale. Sì, vabbè, ma non so, vabbè, comunque. È un'antenna che per fare due chiacchiere in città va bene, dai, no, io sono sempre del parere che gli avete l'antenna come si deve, però arrivi bene, dai, Santiago 9 va bene. E che il problema è che adesso, fra qualche giorno così, si apre propagazione, sarà difficile ascoltarti, capito? Vabbè, ci arrangeremo, dovete richiamarci. Sì, ci adattiamo alla situazione. Beh, da me se la propagazione supera i 9, io già a te non ti ascolto più, capito? E crea fatica anche a noi, a volte, quando c'è la propagazione 9.20, 9.30, ascoltarsi tra di noi, fatti lo gol. Immagino. Ti ho mandato le foto. Aspetta, guarda il telefono. E in quel PL non gli hai messo niente, l'hai mollato così? No, già isolato. Sì, ma non c'entra niente, il cornicione l'ha già superato, quindi non ti fa nessun riflesso. Bene, Meda. Vabbè, c'è un altro cc di tubo, almeno un altro metro, volendo la tiro su. Vabbè, se c'è la possibilità, tirala su, capito? Ce l'avevi quest'altra possibilità, gatto? Cioè l'antenna, tu lo sai meglio di me, più alta la metti e più bene lavora, quindi ci avevi un metro di tubo, bastava allungarglielo. Sì, vabbè, non ho finito ancora del tutto di sistemare su, devo rimettere a posto un'antenna devo sistemare bene l'antenna delle televisioni, che l'ho laggiù ragata a bendula, e quindi domani mattina, come sistemo l'antenna della TV, sistemo bene il faro, tiro su quello che è rimasto e fisso le antenne della televisione. Andare, va bene, ok. Chi è che vuole entrare? Avanti. Avanti, Brecco. Ti ascolto, se no non ti avrei risposto. Questo è ovvio, ma non hai un rapporto per piacere, tu hai Santiago 5 e Radio 5. Radio 5, Santiago 5, ma siamo a strano. Quindi tu arrivi 9. Vabbè, sono un BV131, solo per quello, capito? Ecco, prova a attaccarlo questo BV131, vabbè quanto arrivi. Santiago 4, Massimiliano, prego, grazie a te, buona serata, salutami la combriccola, ciao. Io abito un po' prima dei due tralicci, per farti capire. Io abito un po' prima di Walter, quindi sono più o meno la stessa zona. Cappa, ciao Marco, buona serata, dai. Avanti Gianni. C'è un altro breco sotto. Io comincio a me, questi breco, io non li sento tutti questi brechi che breccano tu. Ma se io l'ho sentito, cosa vuoi ti richia? E fallo entrare allora, se l'hai inteso, io l'ho inteso molto. Avanti il breco. Ok, salutone Lupo Grigio, buona serata. Andate in modo adesso Lupo Grigio. Ma poi ha detto, va bene, non entro più, e gli ha detto, ok. Ma io non lo sento, zero completamente. No, forse con un portatile, Massimiliano. Attenzione Lupo Grigio, copi Marco da Sassari, zona Cinamariston. 8. Ah, Paghisso, ecco, Massimiliano, zona Cappuccini con un portatile. Ok, sì, qua arriva da 8, 8 e mezzo oscillante. E la radio fa anche discreta, per essere un portatile, capo. Dai, vado a dentare il pollo, ciao. Gianni, poco fa sul 26 c'era un tedesco, Santiago 9 in FM purtroppo. Perché se non ti volevo dire, passa, prova a chiamarlo, Santiago 9 in FM. Bisogna fare una colletta, mio Marco, la regalare una della radio tua. Ah, io gliela posso regalare a occhi chiusi, mi. Tanto non sono vendibili, cioè... caspita, quando le ho messe in vendita mi volevano dare roba vecchia, più soldi... aspetta, il telefono... Sto scherzando, eh. Vabbè, io mi sono un po' grigio, non lo ascolto, boh. Piazzati l'antenna come si deve, dai. Col portatile, giustamente, ascolta che è vicino lì e basta. Gianni. Eia, sì, da via Principessa Yolanda. Lupo Grigio, ti ascolto solo io e Marco, se sei ancora in frequenza. Purtroppo gli altri amici non riescono a tirarti fuori. No, si è spostato. E così come pretende di ascoltarlo qua, nelle mie zone, con un portatile? Ascolta solo a voi perché ce li ha vicino lì, se no... Certo, vabbè, quello è chiaro, poi se dentro casa figuriamoci, cioè, non ha possibilità. Carpa brioscia, va bene, quindi comunque, tornando all'antenna ho già, hai migliorato niente, si può dire, no? Magari hai migliorato magari qualcosina tu in ricezione, ma se mi stai dicendo che anche gli altri... hanno lo stesso segnale, quindi l'antenna non è risolto più di tanto. Va. Vabbè, dai, quello che mi conforta è che è una piccola variazione di segnale, Franco l'ha misurata, quindi voglio dire, almeno quello, dai, non è stato tempo sprecato. Non è mai tempo sprecato, ricordati. E quello sì, qui chissà poco ma sicuro. Poi ho visto che è abbastanza anche stabile di stazionaria e sono riuscito ad accordarla bene, avevo un po' le paranoie, però alla fine sto passando da 1.1 a quasi 1.2 di stazionaria. A 1.2? Ma perché la stai accordando? No, dico, bene o male, anche sugli altri canali ho provato, più o meno il segnale varia, cioè il segnale, le stazionarie variano da 1.1 a 1.2. E allora va bene, dai. Va benissimo, ti fa il centro banda, canale 1, canale 10, va bene, ma comunque 1.1, cosa vuoi che sia. E io praticamente l'ho fatta, mi sono messo sul 20, ho fatto un paio di prove, 19-20, e l'ho fatta lì. E allora ce n'è per i maiali, va bene. Bene meda. E via, mamma mia, raga. No, io sono riuscito a mettere lo smitterino a quel superstar e va bene così, no? Quindi oggi ti toccava fare il tecnico, così è? Ma guarda, l'altro giorno mi ho sistemato quello dell'87 che non funzionava, che l'ho sistemato. E poi c'avevo una radio vecchia e c'era questo smitter, ma il gas era un bel grande, ne ho tagliato un po' di plastica, un po' di cose e io l'ho adattato. Però funziona bene, no? almeno funziona. Vabbè. E poi c'è... sente una portante entrare e uscire. Da un paese tutto. Forse è quello dei giocattoli dei Paolini. Aspetta, che è avanti. Vabbè, a me gli salienti mi vanno a ridere, perché cioè, ti sentono parlare, ci metto un portante, cioè provo la canale 9, le mandi avanti e la bui, no, entrali. Va bene. Poco fa con Marco stavamo sentendo, sai, quei giocattoli che si attaccavano alle biciclette un po' di anni fa, a forma di altoparlante col microfonino, che facevano le sirene della polizia. Ho capito. Roba del genere, mi. Qua no, beh. Sì, proprio qua. A chi non sappia cosa va, compreso, tanto si butta a giocare con la bicicletta. Uia. Vabbè. Siamo sani, come dice qualcuno. Gappasa. C'è un caldo allucinante oggi, non è. È quel caldo appiccica a me. E infatti, è proprio quello che dà fastidio, quello umido. Sì, e poi c'era anche coperto, ragazzi. E va bene che è bene. E adesso fra un po' si apre di propagazione. E così sentiamo un po' credo da burutto. Certo che sì. Dai, comunque adesso lascio tutto così, vediamo un po' cosa succede, magari prossimamente quando c'è la propagazione vediamo un po' se riusciamo a fare qualche contatto. No, farlo già ci riesci, ho voglia. È che sia un po' limitato. Oh, cosa è successo? Nulla, Barroso. No, sono entrato adesso, era al telefono. Dalla propagazione, sì, un apparecchio l'FM e le bande laterali urgerebbe. No, ma io, Massimilia, tu stai scherzando, ma io no. Io qui baracchini ce li posso anche buttare, mi. La passione non c'è più come una volta. A venderli non fa, perché poi... Ti spiego, Massimilia. Alcuni baracchini hanno un vizio occulto che non ti impedisce di usarlo normalmente, però questo vizio occulto c'è. E quindi se lo devo vendere a gente di fuori che non mi conosce, cioè non fa, capito? Perché dico, ma c'è un difetto che ogni tanto lo fa, ogni tanto non lo fa, e allora non è vendibile quella roba mia. Almeno parlo di uno o due apparati, E cosa sono, si può dire? Certo, io dico tutto. Sono un Super Geopix 2000, che sarebbe come il Pluto, però colore cromato, col display color perla, no? Praticamente è un 3009 col frequenzimetro, no? A cifre verdi. Questo apparecchietto, col tempo, mi sono accorto, deve avere una saldatura mezza fredda. Certe volte vuoi accendere, ma raramente, tipo una su mille, due su mille, vuoi accendere e non accende. Allora lo spegni e riprovi una, due volte e si riaccende. Deve avere qualche saldatura fredda, per il resto poi funziona, capito? Certo, non è centratissimo in frequenza, no? Poi vabbè, gli altri sono l'HR5005, vabbè, quello funziona, però se vogliamo essere pignoli, la manopola dei canali, no? Che non è un selettore meccanico come il vecchio 48, ma è di ghisi digitali di adesso, che come spiegartelo? Anche da nuovo lo fa, c'ha degli scatti a vuoto, cioè tu cambi canale, senti il tic, però non cambia subito. Non sono perfetti questi apparecchi nuovi, questi SMD. Gli altri ancora vanno bene, il 9009 e il 7009 non c'hanno difetti, credo. K, no, io va bene, sì, lo conosco il Jobs 2000, una bella radio anche, effettivamente. Vabbè, ma dici, quelle sono cazzate, mio Marco, quelle con due soldi le metti a posto. Ma chi te lo mette a posto? Perché qua non c'hanno la pazienza, Sassari, cioè... C'hanno anche altri lavori, no, già capito, no, prima c'ha i lavori del laboratorio, lì li può fare a tempo perso, con molta calma. Poi cosa ne so, al frequenzimetro, ma secondo me non è centrato, nemmeno questo è centrato, cioè questi qua, come escono di fabbrica, hanno una taratura proprio fatta a cacchio di cane. Poi più scaldano e più vanno in deriva, poi si stabilizzano, no? Quindi manda laterale a freddo, devi mettere il clarifier in una posizione, poi dopo magari un'oretta che moduli, alla fine si stabilizza in una posizione, cioè. Poi vabbè, poi manda laterale, all'inizio si sentivano le modulazioni, per quanto le centrassi, nota bene, manda laterale, centravi uno. In SSB lo centravi bene, però si sentiva un po' di effetto vibrato sulla modulazione, cioè hanno una taratura molto grossolana questi baracchini, compreso questo, proprio grossolana, per non dire che non ne hanno fatto taratura, capito? Sì, ho capito, vabbè, comunque quella radio lì accendile un po' spesso, perché con la questione che hanno frequenzimetro, condensatore, roba del genere, cioè ogni tanto dalle un po' di corrente, ecco. Ehi, l'avevo acceso l'altro giorno, ho fatto il giro, Jopix 2000, che poi quello, in realtà, sai che nasce omologato, Massimiliano? c'ha dentro un ponticello, tre piedini, no, con un ponticello, tu lo togli con le pincette, no, tra, che ne so, un'ipotesi, tra l'1 e il 2 è omologato, lo metti tra il 3 e il 4 e diventano 240 canali. Poi naturalmente puoi mettere la modulazione a manetta, i watt, puoi fare fino a 10 in AM, 30 SSB, però sai cos'è, per questioni di pilotaggio lineare l'ho lasciato 4 watt AM e 12 SSB, perché sennò tende a saturare e a strappare. Sì, sì, ma quello è lo stesso, quella è un'altra cosa che si può fare, nel senso che porti un potenziometro all'esterno, fuori, metti i due fili e te lo fai regolabile. Sì, ecco, sì, e in effetti questi qua non hanno potenza regolabile, quello è un po' una pecca. Gli hanno messo questo SVR Cal per il rosmetro incorporato che non serve a niente, cioè potevano non metterlo per averlo così raffazzonato, era meglio il potenziometro per la regolazione dei watt. Addirittura senza farlo esterno, Massimiliano, basta sacrificare la manopola SVR Cal e collegare, cioè chi lo sa fare lo fa, e regoli i watt dall'SVR Cal, capito? Anche una così si può fare e va bene lo stesso. Naturalmente poi per tararli no, ci vuole strumentazione, oscilloscopio, ci vuole strumentazione, capito? Per tararli bene, per tararli, vabbè, adesso, Pomponio, ti voglio bene, per tararli alla Pomponio non va bene. Lo so, va bene, rimango comunque. Magari Pomponio può fare altro, però magari per le tarature, anche per aprire il radio, chiudere, tu una volta che tocchi, anche se tu un trimerino lo segni con un pennarello, con qualsiasi cosa, non ritornerà mai nello stesso punto che l'hai messo, capito? Anche se sembra uguale. Quindi sì, beh, bisogna attaccare gli strumenti. C'è qualcuno che lo fa qua a Sassari, gli ha capito gatto mio, capito? Però vabbè, tempo per amici forse lo fa, capito? Anche per hobby e per passione, ma non credo che faccia lavori così esterni. No, infatti lui è preparatissimo, c'è strumentazione, però giustamente lo fa da amici. Io non ho confidenza, lo conosco appena per radio, capito? Ma lui te lo farebbe un bijou. Ok, dai, fatemi mangiare sto pollo che già non ho voglia. Gianni, riprendete voi, ciao, avanti già. Ok, insomma, il suo pollo è più grande di volo. Magari non con le ali, non con tutte le ali in forma, però magari è già pigliato il volo. Quindi Marco, stai attento al pollo che vola. Uia. Vabbè, Claudio sta guardando la partita, Franco è uscito, Tino è uscito, vabbè, siamo rimasti noi due, Massimiliano. Vabbè, io adesso se non esco vado a prendermi un biberone verde e mi bevo un gocciolo fresco. Un birrino, dai, ci vuole. Quando ci vuole, cazzo. No, un birrino, un birrone. E birrino per modo di dire, mi? Il birrino per me è 33 che non mi arriva manco la gola. Allora siamo in due. E io gli anni fa, ora succiato, non più nulla. Adesso sono da parecchio che senza berne, cazzo, non c'è una gana. Mi sa che uno di questi giorni mi tocca riattassarla. Davvero? Vabbè, oh. Io c'hai i negozietti vicino lì. Guarda, quando lavoravo in giro per i locali, cazzo, molte volte mi spaventavo perché sotto la console, cazzo, avevo lo scaffale, cazzo. Vabbè, quando lavoravo era una cosa diversa, ma adesso che non lavori, già ti ho capito io, più o meno. Quando inizi, che vabbè, solitamente arrivavo prima degli altri, cioè insieme ai barman, roba del genere, quindi sai, non vedo nessuno, e già inizi a sbirrettare da lì. Quando poi a fine serata che sbaracchi tutto, e so già le 6 e mezzo di manzano, una buttata, buttavilo che sotto la console, cazzo, vabbè, c'era anche gente che si avvicinava e poggiava i birilli sotto, quindi non erano solo le mie, però già in quel periodo già mi difendevo, dai. KK, va bene, dammi due minuti già. Fai col comodo. Marco, se sei in quel rig, se ti ho mandato un vocale sul telefono. Un attimino. Vabbè, tranquillo, mangia, no, era giusto per dirtelo, non è, era giusto per avvisarti che ti ho mandato un vocale. Massimo. Chi è, avanti? Buonasera, Gigi, Gianni da Sassari, zona centro storico. Già parlo di no, sto facendo attesa. Niente, stavo provando. Massimiliano è andato a prendersi una birretta fresca e niente, comunque so che dovrebbe rientrare comunque. Ascolta Gigi, mi dici più o meno come ti sto arrivando? Santiago, no, quello è molto. La radio è super 5, però è un Santiago nome qua. Non lo so quello che di queste ragioline, non so, capito. K, anche tu già arrivi bene, dai, Santiago 9910, oscillate 9910, la radio un po' bassina, comunque abbastanza comprensibile. Mi puoi dire dove ti trovi? 80 km da Porto Torres e 80 da Sassari, a 80. Cappa Roger, bene mera. No, siccome ho piazzato un'antenna a Ringo stasera, sto più o meno facendo un sondaggio per vedere se era cambiato qualcosa dalla boomerang. Vabbè dai, comunque linea di massima già va bene così, dai. È positivo, poi mi è sembrato che c'era Marcolino, non so se sia ancora in radio. Sta caricando, si sta zuffando con un pollo. Io penso che la pigliore ce l'abbia in fondo. Mi sa di sì, dai. Alla fine ci ha messo un po', ma mi sa che il pollo è alle strette. Ho ripreso, Così. K, Massimiliano, c'è Gigi che ti stava cercando qua. Ehi, ciao Gigi, l'ho sentito, sono sceso giù a prendermi un po' di acqua da bere perché la verità c'ho sette, dai. Ciao Gigi, vabbè. E non c'è il rumore. Passate al canale 9. Tappa. Io ti ho fatto un altro canale. Se n'è andato, là. Va bene, ok. Gianni, ritorno al 10, dai. Eccomi. No, là, c'è ancora. Passate al canale 9. Gigi sul 9, io. Tranquilla, c'è qualcuno che se la sta fischiando. Eia, eia, scusate, è occupato il canale? Un sì o un no, boh. Provalo qualcuno, va fottiti. Ma attacco la MB più 5, così ti fai un'idea. No, perché Gianni l'idea sembra già arrapato. Ho detto, però provi, se ti piace, boh. Capace che glielo lascio pure, mi. Intanto io se riesco a levarmi dalle scatole questa mondezza che mi riempie, mi occupa gli armadi, sono pure contento. Caparrogero, sì, provalo dal più 5. Cioè, ancora lo devo, pensa, è dentro la scatola, è proprio tutto sigillato, no? Mamma, i turchi, quanti soldi buttati. Aveva ragione chi diceva, ne basta uno di baracchino. Bella radio c'hai, eh? Ma questo è il marito originale. Cioè, quello che uso sempre, aspetta, lo sto togliendo dalla scatola. Cioè, scontrino, è tutto qua, fuia. Un attimino che lo piazzo, eh. Tornate siete? Sì, già, ti abbiamo chiamato sul 9 e ci siamo spostati nuovo qua, va. Ma sempre chi c'è una bicicletta con la sirena, gli rendi? Non se lo dirà. Ma se lo ci dirò, ma sa cosa. Vabbè, dai. E quindi com'è andato il test? Buono, buono. Aspetta, sta provando con la radio con l'MB più 5. Te la voglio sentire. Allora, non conosco lo stato della batteria. Io questa batteria non la carico da un anno e mezzo, è ricaricabile. Il volume in questo momento è a 7. E il tono è a 3. Distanza dal mic 30 cm. Come ti sembra? Un bel forte la radio. Prova a abbassarla a 6. Troppo forte. Oh, pensa, se la metto a 10, tu adesso è a 10. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, mettiamola a 6, anche a 5 facciamo, dai. Così. Allora, in questo passaggio a 6 è un bel picchi che vedo. Conta che il trimmer dell'M qua è tutto aperto, tutto. Allora, così a 6, questo passaggio a 6, in questo passaggio a 5, 5, 5, mic gain MB più 5 a 5, va? È buona, così è buonissima, e invece il mic gain della radio ce l'hai al massimo? Sì, quello tanto vale lasciarlo al massimo, poi dirottare sempre dal mic. Eia. Sì, qua ci avevo messo, Massimiliano, quelle batterie da 9 che poi sono da 8,4 volt prese da Lidl, quelle marca Barattu, Stracco Barattu, come si dice? Ma io non avevo a te, se mi dello spi, figurati. Gianni, come ti sembra? A parte la mia voce che ho le corde vocali accavallate, come ti sembra? A voglia. Molto sfumeggiante, molto più alta rispetto alla radio che sono abituato ad ascoltare. Sfumeggiante, no, dicevo già, tu comunque sei arrappato all'idea, sì, di provarlo e poi si vedrà. Questo me lo devi dire tu, Marco, cioè, io sono disponibile, non ci sono problemi, poi chiaramente bisogna trovare anche un accordo dopo, no? Non è che la prova deve durare all'infinito. Eia, ecco qua, torno a 3, mi aveva consigliato, vabbè già lo sai Claudio, mi aveva consigliato di tenerlo a 3 o a 2, perché la mia voce è più fine, se lo metto a 5, così a 5 tende a diventare forse troppo acuta. Infatti ha ragione, è troppo acuta così. Eia, sì, poi a 10 non ne parliamo, a 10 è... Adesso a 10 è una bucaria. Guarda, la basso a 3, te lo faccio sentire anche a 2, sono a 2, a 1 comincia già a diventare troppo cupa. Così a 1, prova apparato, sono a 1, a 0 sarà troppo cupa, dai. No, lascialo tra il 2 e il 3. Confermo. Fatto, tra il 2 e il 3, proprio a metà strada. Poi distanza sempre 30 centimetri. Ecco qua. Mamma mia, questi microfoni da tavolo non li posso vedere, guarda. Quelli invece sono belli. No, ma sai perché, Massimiliano? Perché io questo microfono, non avendo spazio, sono seduto sul divano, devo appoggiarlo sul bracciolo di legno del divano, che però è a filo, mi. Certe volte se lo smatto, senza volerlo, mi può cadere anche in terra. e non per quello. E poi diciamolo, a me è sempre piaciuto il mic da palmo. Vabbè, non ti puoi mettere una mensola un po' più grandetta e lo puoi appoggiare, capito? Ma tu l'avevi mai vista le condizioni di lavoro mie? C'ho un piccolo portatelefono di 40x40 e c'è il baracchino, il ricevitore. Casomai tramite Gianni te lo faccio avere, l'ho fatto istantaneami. Eia, ma perché hai cambiato numero? Io forse ce l'ho il tuo numero, lo sai. Dimmi qual è, come inizia? Ma non me ne ammetto, fammelo cercare, aspetta. No, invece non ce l'ho. Però già, mandamelo per favore, il numero di coso, di Marco. Eia, aspetta che mi attacca il telefono, Mi sa che me l'avevi dato, adesso non sono sicuro. Se l'avevo cancellato o cosa era successo, però è strano. E sai cos'è Massimiliano? Ho cambiato due cellulari, ho cambiato schede, controschede, praticamente avevo perso numeri anche, avevo perso un bel di numeri. E quello perché? Perché anziché salvare sulla SIM, avevo salvato alcuni numeri sul telefono, come è partito il telefono, si è rovinato il telefono, ho preso i numeri, capito? E vabbè, adesso mi manda il numero di Gianni e io ti faccio subito uno squillo, così te lo memorizzi. Il mio finisce 416. Eia, ok. Mi stavo venendo a prendermi. Ebbene, Gianni Gay, molto ci va a mandare il suo numero. Un attimo, che sono vecchia scuola. Ah, quello con le dita piccole, sì. Eiaia. Sì, io prima avevo due cellulari, due smartphone, cioè uno era di mamma, che non lo sapevo usare, l'ho preso io. Uno era mio, poi sono invecchiati, adesso ne ho altri due. Uno con Iliad e l'altro con Mobile, che sarebbe Vodafone, più un cellularino tasti con la vecchia scheda solo per telefonare. Mi mandato, scusate un attimo, lo sto salvando, Eia. Ecco qua, come deriva il frequenzimetro. Comunque sono pienamente convinto che questo frequenzimetro non rispecchi la reale frequenza, a parte che non ha decimali, i decimali non ce li ha, c'ha il kilohertz solo, e secondo me comunque non rispecchia la realtà. Sono tutti frequenzimetri messi tanto per far contentimi. A livello di buccia, no? Già, in due parole, baracchini sono baracchini, non è roba professionale, capito? È roba gigionesca, così per giocare. Marco, allora ti ho mandato un messaggio a Motozappa e poi sotto c'è il mio numero, ok? Queste sono le mie condizioni. E già, aspettiamo che arrivi, vediamo qua. Tutto tace. Cos'è questo cloud? No, non ne voglio cloud, via. Ancora nulla, vabbè, dai, conta che Iliad è più lenta come rete. No, ti dicevo che io l'ho tolta, avevo mia figlia Iliad, l'ho tolta e l'ho passata a Tim. A 7,99 con 50 giga e chiamate limitate. Questa è una registrazione. Ah, non è uno che sta parlando a Radio 1, no? No, a me qua mi arriva 9, ma mi sembra una registrazione. E poco lento arrivi un messaggio, Marco. Ma io qua sto guardando, aggiorniamo, esci a vedere. Non è arrivato nulla qua, aspetta che provo a chiudere, riaprire. Oh già, ma è giusto il numero che gli hai dato? KK 351, giusto? Il mio numero non me lo ricordo, però Massimiliano, non so il mio numero. Aspetta se ce l'ho. Cazzo, non c'è il tuo numero, ma tu come sei messo già? Avanti, Gianni Lubrofè. Eia. Allora, lui poco fa mi ha fatto uno squillo con un numero e ti ho mandato quello. Adesso non so se è lo stesso, perché io ho un altro numero suo. quindi adesso vediamo qual è il problema. Ma scusa, tu mi hai detto, gli hai mandato un vocale, a questo numero gliel'hai mandato, mi hai mandato a me o all'altro? Sì, è quello, guarda, finisce con 0989. E io allora ti ho mandato quello lì, 0989, ti ho mandato la foto, ma mi sembra che non ti sia ancora arrivato. Aspetta che guardo il numero bene. Sono l'ultimo messaggio del profeta, dello profeta, sì. Caspita, cioè il segnale c'è, con Gianni abbiamo messaggiato anche vocalmente, e se no già glielo passi tu, dai, finché non capiamo questo inghippo del numero. Aspetta, perché io ne ho due, forse l'ho mandato al 347 già. No, infatti, no, il 347 è solo cellulare proprio a tasti. E come, aspetta, Ma cosa c'è oggi? Sentono ambulanze, sirene, anche qua a me. Adesso qua sotto casa c'è il pullman dell'Arse che sta strombazzando da poco fa. Lì, si sente? E si sente di più la TV, dai. È passata qua prima. Allora, si sta avvicinando, stanno volendo pigliarmi con la camicia di forza sicuramente. E avrebbero anche ragione a dirla tutta. Esagerato. Forza con questi messaggi, forza! Massimiliano. Aspetta un secco. Avete parlato in due, chi è entrato? Avanti. Arrestato. Eia. Vabbè, prima o poi capita a tutti. Certo, ma pensi ci si va a mangiare bene dentro, come hai detto, cosa? Aspetta, con lo carcere credo che abbiano tutto, TV. Cioè alla fine è diventato un albergo, non è più un carcere. Vabbè. Allora, ancora niente, lascia vedere. Vabbè, dai, vai Gianni. Abbiamo la solita giostra stasera. Siamo la giostra con sirene e pernacchie varie. Ma non sarà quella sirena che abbiamo detto prima, quella giocattolo, che si attaccava la bici? Sì, una di quelle lì, una di quelle cazzate lì. Avanti fra. Scappa, aspetta. Sarà qualcuno che sta giocando lì. Che c'è qualche sirena, qualche giocattolo. Bubu, già siamo a Conzi. Già, è così. C'è chi gli piace parlare, chi gli piace mettere musica. Dunque, che mi sembra che c'era anche Massimiliano. Avanti Massimiliano. Sì, forse mi gioco in trippende col telefono. Ciao Franco, buonasera. E a chi ti sei intrippendo? Ma no, è cosa da bizzini? Lo so. Il problema è che non so come più pizzini. Allora come ti nasce di sale trattato il telefono? Non mi mandi no. Davvero me. Guarda Marco, se ti è arrivato qualcosa, ma poi mi sembra che sono incasinato. Allora, ne ho inviato uno al profeta, ma ancora qua non è arrivato. Come può essere? Andiamo per gradi, dai. Adesso il profeta ti gira una foto, dai. E vedi le condizioni misere mie di lavoro. Cioè, o li devo impilare uno sull'altro, capito? Fare la pila di alta di radio. L'ho vista Marco, sì, adesso ho visto la tua foto. Gianni, fai favore, gira il mio numero così se lo memorizza. E così Marco, appena te lo memorizzi, mi mandi qualcosa o mi fai uno squillo. Così voglio vedere, va? Ok? Eia. Se non mi, carta e penna, come si faceva una volta. Beh, faccio il telefono, c'è bisogno di carta e penna, aspetta. Vabbè, vecchia scuola, mia zia è rimasta ancora la carta e penna, lo sai? Questa cosa ho fatto una volta, con il tablet, no? Lei ha messo Millo, è arrivato. Ecco, adesso quello lì è il mio numero, fammi uno squillo solo. L'ho mandato io. Ecco, chiamata in corso, solo uno squillo? Ok, sta squillando, aspetta che non sento. Sì. cazzo, il microfono lasciato inserito. Vabbè, se c'è il tuo microfono, sì, mi è arrivata la chiamata, ah, ok. Avevo bloccato il mic, ho detto, vabbè, non funziona più, non ricevo nulla. Avanti, Fra. Capo, vai, vai, vai, passatevi i numeri, passate. Sto ascoltando. Volevo vedere una cosa. Anzi, di una cosa a Massimiliano. Massimiliano, ha modificato quello? Che cosa? Quello che vedo su Facebook. Dimmi, dimmi, non sto capendo. Una radio che c'è un lineare sopra. Sì, sì, sì, però quella si può usare normale, escludendo tutto da pulsante. Certo, me l'ho immaginato, perché quella radio ne ho viste parecchie modificate. Buonasera, Buona. Ciao T, buonasera, sì, sì, sì, sì, è modificata quella. Però diciamo che mi proprio continuo, l'altro giorno l'abbiamo provata in FM, in banda che è centratissima. Sì, va bene, va bene, ok. Oh Tino, giusto una curiosità, l'hai guardato il video, dimmi sì o no. No, no, no, non ho avuto tempo, sono entrato adesso a casa. Ah, ok, là, quando c'hai due minuti poi lo guardi e mi dici se va bene o non va bene, là. Ok, vai. Eia, per Franco, ascolta Fra, ma stai usando il capo adesso? Sì. Per darmi, se riesci a darmi un controllo più, adesso non so se lo stavi usando anche prima, se, non mi ricordo se stavi usando prima il capo o un'altra radio, se mi dici più o meno come sono messo col segnale. Guarda, prima ho visto che eri 7. Ma adesso sei sceso a 5, sei sceso, 5 e 6 modulati. Vabbè, siamo andando in breccia, dai. E io cambiati un momento l'antenna. Oh, no, davvero, quando è, no, un paio d'ore fa, tre ore fa, mi sembra che è entrato, ed era a 7, arrivava come Marco, arrivava. Adesso invece si è di nuovo calato, non ho capito perché. Boh, adesso sì che vado su a dare un'occhiata all'antenna, magari ne farà e non me ne sono capizzato. Scusate un attimino, Massimiliano, ti puoi spostare sul vento un attimino? Ehi, dai, un attimino, qua si aggrecca il vento, va. Va bene, va bene. Capito, Gianni? No, ho capito perché. Oh, yeah, mi sta ubriacando questo rumore. Sono costretto a mettere lo squelch. Questa roba, non so, segnali strani, secondo me il ponte cellulare, perché quello che genera roba così l'onfia. L'antenna già c'è, dai. C'è? Buono, buono. E magari come scalda, magari da poco come qualche watt in meno, tutto è possibile. Allora, questo smitter credo che sia più generoso del dovuto. Cioè tu attenuato a 0 sei 2, cioè hanno lo stesso tipo di attenuatore, no? Attenuato a 0 sei Santiago 2. Oh Gianni, dimmi Fra. Ma non è che hai attaccato qualcosa? Hai attaccato poco fa? No, poco fa, cioè niente, avevo praticamente lo strumento, cioè il rosmetro collegato come ce l'avevo prima. Il rosmetro collegato come ce l'avevo prima. Una cosa strana però, Una cosa strana. Ma arrivi come l'altra antenna, Aspetta, facciamo una prova. Adesso provo ad attaccare l'antenna diretta e stacco il rosmetro. Un attimino. No, ma prova. È probabile, Marco, che... Strano, poco fa arrivavo a 7, modulati 7,5, e invece adesso è 5, modulati 7, modulati 6. Non saprei, non saprei, quasi, di solito arrivi circa 9, no, tra 8 e mezzo e 9, e questo smitter se ti segna tra 9,5 e 9,10. È un po' segna più alto del normale, dai. Poi bisogna vedere quale dei due è il più veritiero, magari è più veritiero questo me. Capo, però devi considerare che questo, quando ho iniziato a modulare poco fa, era freddo, mentre adesso saranno quasi 4 in più, adesso mi saranno 40 watt. Eccomi. Eia, poi in più ho cambiato apparato, quindi vai Gianni. Ecco, adesso praticamente l'antenna è diretta all'apparecchio, il rosmetro l'ho staccato. Vedi, adesso c'hai quasi 7. Allora, vabbè. Lo lascio staccato, dai, lo lascio staccato che è meglio. Capo, arrivi, sì, 5 qualcosa, portante fissa e modulati, si arrivi quasi a 7. KK, va bene, sì, l'ho saltato come l'altra volta, eppure adesso gli spinotti, le saldature sono tutte perfette, quindi... Sì, e magari non dipende dall'antenna, magari la posizione, dai. Niente, o è come ha detto Marco, magari come ha saldato, si è assestata. Vediamo, dai, non sta tirando vento, comunque adesso c'era un po' di venticello stasera, ma ha calato quando la stavo piazzando, adesso il vento ha calato e magari la sta appoggiando qualche cuzzurata, anzi ora, adesso piano piano si sta assestando, ma vuol dire che lascio tutto così, dai. Ma ti conviene attaccargli lo rosmetro per le stazionare, per averla sotto controllo, anche se arrivi qualche mezzo segnale in meno, meglio, però l'importante è che la radio rimane sempre la stessa, che rimanga quello. Eia, vabbè, da, già era scollegato anche prima, quindi voglio dire, l'ho collegato giusto per vedere i livelli stazionari, siamo a 1 e 2, oscilla tra 1 e 1 e 1 e 2. Non è male, dai, 1 e 1, 1 e 2, non è male. E intanto ti conviene attaccarlo, perché se ti è applicato tra che ti sale è meglio controllarlo, capito? Va bene, avanti Marco. Scusate, anch'io mi sto perdendo col cellulare, sto cercando di capire se ho riuscito a memorizzare il nome di Massimiliano, ma non riesco a capire come mandare un messaggio, perché non compare nella lista di WhatsApp, sto invecchiando. Come non ti compare nella lista WhatsApp? Una volta che tu memorizzi il numero suo, entri su WhatsApp, scrivi il nome di Massimiliano e te lo va. Così è. Allora, cerca, vediamo. Hai ragione, sì. Ma ti rendi conto come sono messo? Arrivato a questo punto non tanto bene. Afferrando con lo smartphone, perché poi sai cos'è? WhatsApp è un'applicazione che uso in modo marginale, non è che stia sempre mandando messaggi, no, assolutamente. Io ho detto, se è roba necessaria, che ne so, una radio nuova, ma no, non ne mando roba a raffica, assolutamente. Ecco, ma tu pensa, io avevo la Wii, prima, no? Poi un giorno mi è saltato in testa e sono andato e ho preso l'iPhone, l'ho preso. Beh, lo sai che non riuscivo a fare niente. Veniva mio nipote, veniva qua, piccolino, dai sì che te lo faccio io, credo che abbia tutto un cane, io non scendi, ecco, e lui non sa di un cavolo, ma credo che abbia trattato come che niente fosse. Eia, ma tu sei passato da un altro sistema operativo, cosa avevi prima Android, prima di passare a... l'iPhone, cos'ha? Mac? No, ma che sistema operativo ha? Comunque tutta roba Apple, dai. Esatto. E prima la cosa è Android, come si chiama? Vabbè, Magone. La Wii mi sembra che è Android. Sì, ma anche Samsung, ciao Antonè. Samsung, Xiaomi, Huawei, Asus, c'è di tutte le marche, poi c'è, vabbè, iPhone della Apple, invece sta sparendo quel sistema operativo che mi pare abbia Gianni col cellulare. Gianni, illuminami, era una cosa di attinente a Windows. Windows Phone. Con il telefono Lumia. Ah, ok. Windows Phone, sì, mi ricordo. Android, vabbè, sta spopolando, poi alla fine funzionano tutti allo stesso modo, cioè magari di qualcuno non trovi i programmi. Di Windows Phone magari qualche programma, qualche applicazione non si troverà più o non si trovava prima, non so come funzioni. Io sono molto a digiuno per quanto riguarda questo, infatti più volte vi ho detto che dice sono all'ascolto che mi sto aggiuffando con lo smartphone. Capo, sì è vero, il Lumia io ce l'ho buttato via quello lì perché non aggiornava più, non aggiornava e non mi dava più quello che mi serviva. E in effetti l'ho annullato quello lì, ho preso un altro telefono, avevo preso la Wii allora, avevo preso. Ed era molto, molto molto migliore. Non ho capito perché hanno fatto, il Lumia ha fatto questo sistema operativo Windows e poi l'ha annullato. Non ho capito perché. Oh Luca, ma io ho salutato Pomponio, ma sei Luca? Sì, ciao Marco, dai. Ciao Franco, ciao Gianni, non so che ci sia altro. Sono da oggi, domani, dopo domani single, poi da martedì riprendo a essere impegnato. E isciu? Qui non ti ne esci anni di zibidi, vedi Baraddi. L'anima, credevo di essere l'unico a ruttare al baracchino ancora, invece a quanto pare. Ma se ne esce in direzione dei zebiti. Ben ascoltato. Un attimino che mi allontano giù appena, bene. Siamo rientrati, eh. Ehi, oh Massimiliano, su Fiona, ho mandato un messaggio, non so cosa mandarti, io ho tutta roba, zaini, foto di roba militare, maschere antigas, coltelli, non so cosa mandare. No, hai fatto bene, dai, hai fatto bene, ok, aspetta a memorizzare. Ciao Massimiliano, ciao Tino, avanti ti. Ciao Luca, a posto. Tutto a posto, dai, tutto a posto. Mi sono venuto la mamma a mangiare, perché era la 25 partita, ma se voglio, ho le chiavi, vado e mangio là, ma non mangio qua la mamma, dai. E diciamo che le cose sono più buone, dai, dalla mamma è così, è la verità, dire, pure tu sei sposato, ma le cose della mamma sono più buone, dire la verità, dai. Ma guarda, non le posso lamentare, quindi va bene, c'è una parte che dall'altra. Vabbè, signori, mi devo spostare a fare cose campagnole, dai, che devo mettere un po' di legna che c'è freddo. Ammazza, di. Il barbecue mi aspetta. Dai, riprendete, lei mi se riprendo più tardi. Ciao. Ehi, dai, saluto a Luca, che era da parecchio che non lo sentivo. Ciao Tino. Sì, ho Rattapignà, mi è arrivato, sì, ok, ti ho mandato anche la foto. Avanti Franco. No, Franco è sceso giù a bere. Va bene, mi sposto, ciao, più tardi. Eia, Massimiliano, questa è una piccola frazione di sgomento di tutto quello che hai. Sì, questa è una piccola parte perché gli altri sono tutto chiusi e scatoloni. Ne ho uno, due, tre, quattro ancora da aprire, ma scatoloni che c'è un po' di roba. Comunque, questa non è tutta agganciata, però diciamo che già mi basta per fare due chiacchiere, no? Eia. Adesso poi con Gianni vediamo come le domenica mi per passare questo, farglielo provare, poi se si trova bene, se no casomai se ne sceglie uno che gli piace di più, boh, lui voleva una stazione base, credo, vero già? Però come dico io sempre, no, in cattiva fede, meglio più imbossabili sono, meglio è, tutti di. No, vabbè, già non siamo così schizzinosi. Ho detto, insomma, come gusto e come scelta finale mi piacerebbe un base, però, ti ripeto, non ho. non siamo così schizzinosi. Ciao Luca, buonasera, scusami, buonasera, ben sentito anche a te. Niente, c'è un po' di traffico, a parte le biciclette con le suonerie e ruti volanti, non se ne comprende nulla. Comunque, sì, non sono così schizzinoso, quindi non ci sono problemi. Che poi, oh già, lo sai che... No, vai Luca, vai... No, Massimiliano, già mi ascolti, sì. Sì, ti ho anche salutato, però stavano parlando tra di loro, magari non mi hai sentito. Sì, sì, ti ho copiato, no, pensavo che mi ascolti bene, come sempre, sì? Come al solito, Lucio, no, te l'avrei detto, già lo sai. Ah, ok, da. Avanti, Max, stavi dicendo? Non me la ricordo più. A cosa siamo? Fammi fare mente locale, dai. Secondo me c'è l'Alzheimer, c'è un principio l'Alzheimer, senza scherzi mi. Una vecchiaia quella, eh. Ehi, Acciantone, ma io prima ho salutato te, eri tu veramente o era Luca? Non lo so, forse io non ho salutato appena adesso, ho salutato a tutti. Luca lo sento pure, 2 minuti fa, la verità. Ah vabbè, no, va, perché eravate tutti e due forti il segnale col beep, vi ho confusi, dai. E quindi, ah Gianni, cosa ti volevo dire, per esempio a te che base piacerebbe, che stazione base piacerebbe? Ma tipo Galaxy, Turbo, il Saturn, che base ti piace? Sì, più o meno quella roba lì, cioè, siamo su quel tipo di radio, capito? Un bel Galaxy o qualcosa di simile, un Colt Excalibur, insomma, un Alan 55, insomma, roba del genere, mi. Perché spesso, a seconda del Galaxy che prendi, dentro può avere o la scheda Cybernet, tipo l'MS200, che è in quinto, oppure può avere la scheda EPT3006, praticamente la buccia è grande, no? Però dentro c'è la stessa scheda che ho io qua, questa vabbè un po' più evoluta, più aggiornata, e siamo lì comunque, dai. Invece poi c'è il turbo che mi pare abbia più watt, ha i tasti frontali, e quello non so che scheda abbia, magari Massimiliano lo sa di più, il Galaxy Turbo che scheda può avere? 3600. Qual è? 3600. Doci, oh, qua per ruttare ho il monopolio io solo, e mi sono anche calmato perché mi hanno tirato le orecchie, dai, già non è roba da fare al baracchino, nemmeno per ridere, ecco. Vabbè dai, io vi saluto, siccome ci sono animali in radio non ci voglio stare. Ci sentiamo, dai, buona serata a tutti, ciao. Fatemi schifo, va, si baccarizzai, non lo rispetto proprio, io capisco, ti scappa, va bene, ma cosa continua a ruttare, ma che non trovo un tringotti sul rutto. ma credo che sia quello che stava mettendo l'ambulanza prima, mi. La sirena delle ambulanze che passavano. Eia. Cappa. Va bene. Ciao Massimiliano. Ci aggiorniamo. Eia, ciao Massimiliano, ciao, ci sentiamo. Lui per carità, va. Vabbè, già entro poco. Perché ripeto, laggiù non sta a cazzo. Ho messo un poco qui entro. Eia, tu entravi più in. Dall'altra parte, dai, no? Già capito. Dipende, se ne ho voglia anche lì, oggi non ci sono entrato perché non sono a casa. Domani non credo, lunedì più poco perché ho degli impegni. Penso martedì, mercoledì, c'è una giugana. Intanto ci siamo sempre i soliti, Graziano, Gio Maria, Ettore, insomma quelli lì, dai, soliti. Mi la portante mi. Si disturba proprio. Eia. Ma ci mancherebbe. Procaridare. Vabbè, noi non ci disturba perché siamo vicini, perlomeno. Qua passate. Eia già, vabbè. Anzi, non capitava da tanto mi di portanti, rutti. O si sta risvegliando la frequenza, allora conviene portare avanti l'attività. l'attività CB. Poi l'anno prossimo vediamo se è il caso di pagare concessione o un imbogoduto. Con l'abolizione della legge 180 ne sono usciti fuori parecchi. Mamma mia. Va bene, Antonello, riprendi un po' tu, dai. Dimmi tutto, dimmi, siamo qua. Prima in PMR, siccome avevo due radio accese, non ne stavo capendo niente, ho dovuto spegnere là, dai. Ho dovuto spegnere mio malgrado, perché o seguivo l'una o seguivo l'altra. Ma eri in movimento, vero? Sì, ero in macchina con Marino, mi stiamo accompagnando a casa, ero in via con Torres, per esattezza. Quindi figurati. Però ti sentivo benissimo, Arrivavi una bomba, perfetto. Ehi, ma eri antenna veicolare o antenna dentro la macchina? L'antenna del coso, il bombino per doppio, quello del Bonfeng. Ehi, vabbè, arrivavi bene comunque, cioè. E poi via le Pro Torres, se il tratto iniziale è vicino, quindi non ce n'è problema. Mamma mia, sta mancando la voce, devo staccare, dai. Gianni, Antonello, vi saluto, ci sentiremo un altro giorno, dai. Luca anche, dai, riprendete voi, io devo riposare le corde vocali, dai. Ciao a tutti, ciao. Poi già ci sentiremo. Vabbè, ciao, ci sentiamo al limite dopo là. Tanto come io devo scendere solo Giampiero, quindi figurati. Potrei stare giù e poi ci passo da Giampiero a vedere come sta. Ok, ci sentiamo dopo. Ciao Marco, ci aggiorniamo, dai. Ciao a tutti, ciao. Luca, bellino guadottino, 9.25 qualche cosa, deve essere qua vicino. Boh, meno che non sia qualcuno che sta facendo qualche servizio. Cosa c'era? Il gremio, così è. No, non è quella zona mia, è zona qua vicino, tra me e te, Marco. Capito? 9.25 qualche cosa, tu sei 9.25, quindi vuol dire che evidentemente zona quadrata. Hai capito? Ma non è che ha preso l'orto, qualcosa del genere, hai capito? Se non sai, ci sono i campionisti che si installano i banchi, ma più usano anche l'applicazione del telefonino, quindi. Ehi, dai, non riprendo, ciao. Ok, ciao, la troppo là. Dai, su, ci porto dormi giù, così faccio fare. Tra di voi non c'è potuto parlare, Luca, Gianni. Questo bambino non la tira io, tanto poco faccio io tutto, di quelli di lusso. Ah, dov'è Coca-Cola? Un brutto bocco. Mi sono preso un limitatore dai cinesi, uno l'ha interpellato a 50, Marco. Ma dal computer? Dal computer? No, sono andato lì a Catacità Mercato, sono andato. Con quella carta, hai capito? Sì, no, ma dico, sono alimentatori da computer, quelli piatti che devi attaccare i fili, i volanti. Esatto, sì, sono quelli che hai visto tu, quelli squicci mi sono, con la ventola, capito? Ne sono preso due, uno a 50, l'altro a 20. Eia, 50 ampere, caspita, è un bel, buono. Ah, ma lo posso appena busco un lineare di quelli di macchina, c'ho uno scatolone, cioè una scatola più che altro, capito, di un compressore, quello per antico, vecchio, da modello vecchio per saldare, e in pratica, capito, il compressore è quello lì, dove si agganciava il saldatore, siccome non lo sto utilizzando per il rotto, allora prendo e ci infilo quello lì dentro, l'alimentatore, e poi ci sta anche il lineare dentro. Mi faccio il lineare trazione base, mi faccio. Se vediamo un po', se ci sta il B300 ci metto il B300, se no ci metto il 550 dentro. Delicato, guarda. Mettici il B1200. No, non ce l'ha fatto. 50 ampere la voglia che ce lo porta, che lo porta il coso. il 550 con la 12 volts. A voi. Sì, quello sì, quello sì. No, dico il 1200, no. Oh, 100 amperi ci vorranno. E io faccio la modifica, io faccio il filo vento. Mi faccio linea tra le basse. Allora c'è il filo il baracchino, adesso vediamo un po'. Se voi cercate di metterci il baracchino vento, la 87 con l'alimentatore, oppure il lineare. Tanto già ci vuole poco a fare quella volta che ci vogliamo. Io una di fantasia e ti fai una cosa bella per casa. Vabbè, da, Tonelli, sono quasi tutta la sera in radio, da, chiudo del tutto, dai. Sono 8:15, devo anche andare in bagno. Ciao, ci sentiamo, dai. Ciao, ciao. Ehi, buona cacca, mi raccomando, e anche pipì.